Avvocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. E anche di Giorgio De Luca, autore di questa puntata, di Gianmarco Ferronato che è regia, e anche carissimo Pierluigi Pardo. Questo microfono sì. Che vola via, vola via. Io vorrei descrivervi questa scena, cioè, è arrivato, ha abbattuto il microfono. No, non l'ho abbattuto. e sta litigando col microfono. Ma non l'ho abbattuto, ma ti pare che abbatto i microfoni? No, funziona. Sì, funziona. È un po' moscio allora, il fai, microfono. Fai tutto il pomeriggio così, col microfono in mano. È un po' così. E la risolviamo. 800 24 00 24, vi aspettiamo fino alle 15.30, 349 238 6666, per tutti i vostri messaggi SMS e WhatsApp. Oggi torniamo, Pier, sul mondiale a 48 squadre, o mondiale extra large, o mondialone, o maxi mondiale. Oggi ne ho lette di tutti i colori sui giornali, non solo italiani. Sai con chi lo facciamo? Sì, lo so, ma dillo tu. Lo facciamo con una persona che ieri a Zurigo ha votato l'ampliamento del mondiale a 48 squadre dall'edizione del 2026, è la rappresentante italiana, europea, è la rappresentante donna all'interno del Consiglio della FIFA. Saluto Evelina Cristelen, che ringrazio anche per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, buongiorno. Come va? Bene, bene. A 48 come ci si sente? A 48 di che? Di febbre? Più o meno sono i chili che peso. Ecco. No. Beh. Anche i miei, 48 per 2,5. Per sì. Me, vabbè, possiamo fare una buona collaborazione. No, ci si sente, era nell'aria, insomma, questa cosa qui in sede UEFA, in sede FIFA, era già stata in qualche modo masticata, preannunciata. In un primo tempo, almeno parlo a nome della UEFA, ovviamente, si erano chieste più delucidazioni, più spiegazioni su una cosa che per il momento era stata annunciata così a livello mediatico, ma non aveva nessuna giustificazione più ampia per spiegare il format, quante partite, quanti stadi, quali possibili, eccetera, eccetera. C'è stato poi inviato dalla FIFA un documento di 64 pagine molto completo, che è stato poi esaminato nelle rispettive sedi confederali. Come ben sapete, poi le decisioni importanti di solito vengono prese prima e fuori, certo, dalle sale consiglio, ma quando poi si è arrivati lì più o meno la decisione era nell'aria, era concordata, e siamo arrivati appunto a decidere all'unanimità in 3 minuti per il Mondiale a 48 con 16 gironi da 3 squadre ciascuna. Ma che cos'è quindi? Cioè, come dobbiamo interpretarla questa cosa? Una questione politica, una questione di soldi, magari la legittima voglia di vedere se nel 2026 davvero si riesce ad allargare la base del calcio in tutto il mondo? Credo un po' di tutto. Cioè, intanto effettivamente Gianni Infantino ha improntato la sua campagna elettorale proprio predicando l'allargamento della base calcio un po' a tutto il pianeta. Non va dimenticato che insomma le nazioni, le federazioni, anzi, membro della FIFA sono aumentate in modo esponenziale, cioè adesso siamo a 211, che è più o meno il doppio di quelle che c'erano 20 anni fa, e quindi legittimamente, insomma, almeno il diritto di provarci, non di esserci, ma di provarci, andava un po' allargato. D'altra parte l'ultima modifica al format del mondiale è stata fatta appunto nel 98, quando ai mondiali di Francia è passate dalle 24 alle 32 squadre. Dal 2026 al 1998, andando indietro, sono 28 anni in cui non è cambiato nulla, per cui ci può stare. Se poi si vanno a guardare le rappresentanze delle varie nazionali all'interno delle proprie confederazioni, per dire, all'europeo c'era un 43% di nazioni rappresentate, membri delle, e così via. Questo sarebbe un 23%, i 48 sarebbero, cioè, quindi un si può allargare fino a 96. Beh, esagero, no. Manen, come diciamo noi qua a Torino. Però si può fare, tra l'altro, da un punto di vista anche della durata del campionato, della Coppa del Mondo, della quantità di stadi necessari e così via, non cambia nulla, è chiaramente più alto il numero delle partite. Ci può essere un rischio? Ieri Marca, ma non soltanto Marca, ha fatto una simulazione ovviamente sui 16 gironi. Ci può essere il rischio che insomma i gironi siano abbastanza già scritti, abbastanza noiosi? Nella simulazione di Marca noi eravamo con Italia, Costa Rica e Oman. E Oman. Ora, a parte che Costa Rica possiamo perdere, ma infatti se mai passiamo per secondi nel girone, Costa Rica non la prenderei mai. No, esatto. No, ma però puntiamo a passare da secondi. Sì, ma con tutti i saldi che hanno, vai a sapere fra 9 anni che cosa sono, sì, sì. Cosa sono, perché davvero si parla come se la cosa dovesse cominciare. Va bene, allora a monte questo sorteggio, via Costa Rica e Oman, perché abbiamo capito. Quindi siamo chi prendiamo? Certi, San Marino. No, San Marino non possiamo perché è europea. Oh, a proposito, abbiamo capito che alla fine però l'Europa è quella che ci guadagna meno. Beh, c'è questa ipotesi da 13 a 16. Quindi se, per carità, tengo a sottolineare che lì non si è votato sugli, come si dice appunto in gergo calcistico, sugli slot, cioè sui posti che verranno assegnati ad ogni confederazione. È molto verosimile pensare che l'Europa passerà da 13 a 16 e quindi in teoria ce ne dovrebbe essere una per girone, per cui ci becchiamo la Costa Rica ma evitiamo la Germania, per dire, in una prima fase. Però che l'Europa sia tenuta a rinunciare a qualcosino, a qualcosina, direi che ci può anche stare, no? Perché tra l'altro di queste cose noi ne abbiamo discusso parecchio in seno ai comitati esecutivi della UEFA, e non si può pensare di essere eurocentrici, anche se chiaramente l'Europa ha le nazionali più forti, tranne il Brasile e l'Argentina, a parte il fatto che poi anche gli argentini adesso hanno i loro problemi in casa loro, perché vengono regolarmente superati da altre squadre. No, però c'è il rischio che le qualificazioni europee restino una cosa, diciamo, seria, mentre ad esempio in Sud America diventerà impossibile non qualificarsi. Non qualificarsi. Perché sono 5-6. Per adesso le squadre sudamericane erano infinitamente inferiori rispetto alla proporzione, non al livello di gioco, sto dicendo proprio la proporzione di rappresentanza rispetto all'europea. Qualcosina bisogna comunque rinunciare. Però sono anche meno paesi, nel senso che poi adesso... Sì, però insomma il mondo è fatto da 6 confederazioni. Dai, arriviamo a 20, dai Evelina, dai, 20 europei ci starebbero bene. No, io sono... già non ho parlato. Poi ci troviamo nel girone con un'altra europea, ci fa fuori, allora diciamo fossimo... Però ci mettiamo sempre l'Oman. Però secondo me... sempre l'Oman di riserva, teniamocelo caro. 1-0 con l'Oman, 84esimo Gagliardini. Vabbè, ecco, e passiamo pure autogol dell'Oman, no, salutiamo gli amici dell'Oman, oltretutto che ci ascoltano, vengono qua, ci comprano, ci impacchettano, tra l'altro il mondo del calcio ormai in quella direzione ci sta andando parecchio, tanto per dire, non è l'Oman ma è da quelle parti il prossimo congresso, senza parlare del mondiale del Qatar del 2022, ma anche il prossimo congresso della FIFA, dove molte di queste cose verranno poi decise e formalizzate, molte decisioni, questa ormai è presa, ma insomma si terrà in Bahrain. Credo che voi sappiate dov'è il Bahrain. È più vicino all'Oman che a San Marino. L'unica cosa che dico, non per fare... Però anche noi europei le federazioni le abbiamo aumentate enormemente, perché se voi pensate, cioè in termini di rappresentanza, adesso per carità anche lì non voglio offendere nessuno, ma da quando si sono sciolte l'Unione Sovietica e la Jugoslavia, da 2 sono diventate 20 le federazioni rappresentate, senza dire... che nell'ultimissima edizione del congresso sono state accreditate come federazioni il Kosovo e Gibilterra. Allora, con tutto il rispetto per San Marino, che tra l'altro farà insieme all'Italia, ha portato avanti e ha vinto la candidatura per l'Europeo Under 21 del 2019, federazione straseria. Però è chiaro che anche da noi, se metti a giocare il Kosovo, Gibilterra o San Marino contro la Germania, Gibilterra mi sembra che ha perso 8-1. No, certo, il tema è stato dibattuto nei mesi scorsi. C'è il traffico e siamo un po' in ritardo, poi io mi prendo ancora un minuto. Perché vorrei chiedere a Evelina Crestelleni invece la risposta di una dirigente che era in quella sala, quindi ha alzato la mano in 3 minuti, ha votato questo allargamento, è stata anche nella sua storia dirigente di club o comunque vicina ai club. Ora, io devo dire che trovo che sia un po' un controsenso che la FIFA e l'UEFA continuino a chiedere al calcio dei club, che poi sono quelli che pagano, di fare la dieta, ridurre i campionati, non andare a fare le tournée, dare ai giocatori il riposo, il tempo per la preparazione, tutto, e poi dopo allarghino le proprie manifestazioni. L'europeo che va a 24, dal 2018 non ci saranno più le amichevoli in Europa perché la UEFA fa una nuova manifestazione, il mondiale a 48. Allora, cosa rispondiamo ai club che qualcuno addirittura vi minaccia... minaccia di portarvi in tribunale. Io esagerone di nuovo lo dico, no, io stamattina ho parlato a lungo col mio presidente Andrea Agnelli, perché sapete che appartengo a quella parrocchia là, e Alexander Ceferin, che è il presidente della UEFA, ne ho eletto appunto ad Atene all'ultimo congresso, stamattina e domani riceverà a Nyon tutti i più importanti rappresentanti, presidenti o direttori generali o direttori sportivi dei principali club europei, e chiaramente si tratta di una di una posizione più che legittima da parte dei club, perché sono poi quelli che più che altro il mondo del calcio lo mandano avanti. Si tratta di dare e di avere. Io non ho idea di che cosa Ceferin dirà ai club, ma li riceve tutti tra oggi, domani e dopodomani, e per delle cose che bisognerà chiedere in concessione bisognerà darne altre. Ognuno fa il proprio mestiere. Si metteranno d'accordo. Io ringrazio Evelina Cristellen. Grazie. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Breaking news. Notizia importante che arriva dalla Corte Costituzionale: il referendum sull'articolo 18 non si farà. La Consulta lo ha dichiarato inammissibile il quesito. Il referendum era stato proposto dalla CGIL, lo ricordiamo, e puntava ad abrogare le modifiche apportate dal Jobs Act appunto all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Via libera invece ai quesiti sui voucher e sulla responsabilità in solido appaltante, appaltatore. Prossimi aggiornamenti nel GR delle 15. Convocati. Oggi è anche giorno di mercato. Sì, eh? Io scusa, volevo tornare un attimo. Sì. Con 16 europee su 48 significa che tu avrai, immagino, 8 sudamericane e 8 sudamericane su 12-13 paesi che fanno le qualificazioni. Ci sta che ci siano 8 sudamericane, tra l'altro. Vuol dire che passano due. Per il livello tecnico. No, ma in realtà in Nord sono America qualcosa si qualificano tutte praticamente. E poi hai a quel punto. No, le sudamericane saranno 6 o 7, 6 e mezzo. Nel allora, senso che una andrà a fare lo spareggio. Le africane saranno 9 e mezzo. Le asiatiche saranno 8 e mezzo. Le nordamericane 6 e mezzo. Ce ne sarà una sicura dell'Oceania. Invece, fin qui andava a spareggiare. No, credo una volta Nuova Zelanda è passato, ma noi contrario. Ne sappiamo qualcosa. Sono completamente contrario per un motivo fondamentale. Cioè, che va benissimo allargare da un punto di vista, diciamo, geopolitico all'Asia e all'Africa in maniera. L'Africa poi a un livello tecnico mediamente superiore rispetto a quello dei paesi asiatici. Però quelle che sono le due principali superpotenze di questo gioco, e sono l'Europa e il Sud America, dovrebbero avere più squadre. Se vuoi arrivare a 48 va benissimo, però allora devi fare 20 più 8. Guarda, Europa e Sud America finiranno 8... per avere 20 squadre, 20 su 48. Europa e Sud America. Secondo me sono poche. Vuol dire che hai 28 squadre, cioè più della metà che vengono dal calcio alternativo. Poi, per carità, all'interno del calcio alternativo ci possono essere realtà importanti, perché il Messico è una buona realtà, le africane sono una buona realtà, le asiatiche qualche cosa di buono possono combinare, ma che siano 28 su 48 mi sembra troppo. Io non so cosa ne pensa Gianni De Biasi, che saluto. Ciao mister. Ciao a tutti. Io questo lo dico solo per l'Albania, cioè non è che poi no, io perché noi volevamo allargare a sufficienza. A parte che insomma, per tirar dentro l'Albania. No, fra qualche anno magari non fare più il CT dell'Albania, quindi magari sarà fare il CT in una nazionale, magari dell'Oman che affronteremo al mondiale, Gianni. Sai che c'è l'allargamento al 48, 2026. Perché no? Che dire, io sono arrivato adesso dentro e non vi ho sentito tanto, ho sentito delle disquisivate di numeri di distribuzione mondiale delle varie federazioni che possono partecipare. Credo che comunque questo ampliamento sia sicuramente visto con occhio interessante da parte delle piccole federazioni come la mia, l'Albania. Sicuramente è interessante perché hai qualche chance in più di poterti qualificare. Però condividevo anche la parte finale del discorso che faceva Pierre sul fatto che credo che l'Europa e il Sud America abbiano la possibilità, o almeno dovrebbero avere un coefficiente maggiore di squadre che partecipano, perché la qualità è diversa e perché credo che non ci sia lo stesso andamento, lo stesso livello di qualità a livello mondiale tra le varie federazioni. Sì, c'è chi fa il parallelo con l'allargamento dell'europeo, che invece secondo me è stato positivo e divertente, perché ha portato dentro realtà che magari avrebbero fatto fatica ad entrare, ma che però sono strutturate, cioè non hanno tradizione ad altissimo livello, però il Galles ha giocatori importanti, l'Albania ha giocatori importanti, l'Islanda ha giocatori importanti. Esatto. Io mi sono divertito quest'estate, so che in tanti invece ritengono che sia stato un europeo esagerato, io penso ti sia divertito anche tu al di là del risultato. Sì, io mi sono divertito tantissimo, mi sono divertito meno aspettare 3 giorni per capire se restavo o andavo a casa, questo è un divertimento. No, ma quello posso dire, scusa, ti interrompo, quello è stata la grande falla, di questa formula, ecco, perché quindi, le squadre dei gironi diciamo bassi e F erano nettamente favorite rispetto alle squadre dei gironi alti come l'Albania. Chiaro. Io credo che dal prossimo già 2020 a Londra, in Inghilterra, avendo la possibilità di essere sparpagliato per tutta l'Europa, questo europeo, e quindi che si svolge in, mi sembra, in 13 città diverse in tutta Europa, c'è la possibilità probabilmente di restringere questi tempi qui e quindi di poter avere anche la contemporaneità di giocare le partite che contano, specialmente quelle della fase di qualificazione dei vari gironi. Io credo che questa sia un po' la falla che attualmente deve essere messa a punto, altrimenti si incorre sempre in pensieri negativi di dire che ci sono risultati che vengono poi sistemati in base a quello che è la necessità del momento. Uno non ha nulla da perdere, se perde una partita è chiaro che non si impegna al 3000%, ecco, quello non c'è. Sì, per giocare quell'altro, ma intanto ci riprendono da casa, hanno ragione, è 23 su 48 Europa, Sud America, e non 20 su 48. Però io sono sempre c'è scappato 23 su 48, mi è scappato 23 su 48. Perché sono 16 quindi più 7. 16 più 7, sì, facciamo ammenda. Ma sono poche, dovrebbe essere 20, più, 20 più 8. Tanto ti consigliano 20 più 8, 7 africane, vai a 35, 3 del Nord oggi America. Oggi gli ha preso l'infantile. Il gioco dell'infantile, quando metti tre nordamericane, ovviamente tutte, vai a 38 o due, vai a 30, diciamo compresa l'Australia, vai a 38, ti rimangono comunque 10 posti. A me sembra abbastanza, sì, folle. Guarda, intanto ti suggeriscono di promuovere il campionato di pallastrada come la Compagnia dei Celestini. È arrivato il nostro momento. Dicevo, oggi è giornata di mercato, oggi è il giorno di Gagliardini che ha fatto le visite a Piano Gentile. Moratti ha detto che dovrà dimostrare di essere da Inter. È forse il giorno di Gabbiadini che se ne va in Inghilterra al West Bromwich Albion. Io ho l'impressione, ma non so se Gianni De Biasi la condivide, che fin qui è stato il mercato di chi può e chi non può, ma secondo me avrà un peso questo sul proseguo della stagione. Cioè è vero che a gennaio non si può vendere, non si può cambiare molto spesso la stagione, però è anche vero che c'è chi ha fatto Juve, Napoli, Inter e chi non fa, e questa cosa avrà un peso dopo. Ma sai, dipende sempre da quelle che sono un po' le esigenze dei vari club e poi dalle possibilità che questi club hanno. Poi che il mercato finisce il 31, siamo solo alle battute iniziali, ci sono realtà che magari hanno necessità di liberarsi di alcune situazioni e si fa il gioco domanda-offerta, se tu chiedi ti richiedono, se tu non chiedi ti possono offrire qualcosa e quindi puoi risparmiare e raggiungere gli obiettivi nonostante... li raggiunge magari con una settimana o due di ritardo, ma l'obiettivo delle varie società credo che siano chiarissimi, perché dopo 3-4 mesi di campionato uno capisce dove stanno le falle e dove deve intervenire. Ma chi merita il voto più alto fin qui tra Napoli, Juve, Inter? Cioè quelle che hanno fatto qualcosa? Oddio, credo che siamo ancora in un giudizio parziale, però credo che la Juventus quando si muove ha ragion veduta e credo che abbia apportato quei piccoli correttivi che servivano per cercare di riequilibrare in base poi a quelli che sono gli obiettivi finali. La Juve punta tantissimo all'Europa, il campionato credo che sia un obiettivo possibile, l'Europa invece è molto più difficile, ma che vuole riuscire a raggiungere fino in fondo. Va bene Cairo a non accettare 65 milioni per Belotti? Io credo che se sale di poco non serve arrivare alle cifre della clausola che lui ha posto, perché credo che sia una cifra importante che il Torino potrebbe anche alla fine accettare. Cairo è molto bravo, è molto astuto da questo punto di vista qui, sa fin dove può arrivare. Sì, tra l'altro credo che i tifosi dovrebbero anche farsi una ragione, credo valga anche per quelli della Fiorentina, se davvero ballano 50 milioni per Kalinic, no? Ma ci sono situazioni veramente dal punto di vista finanziario che devono essere... preso in grande considerazione, al di là del patrimonio tecnico che uno perde, al di là di tutti quegli gli aspetti legati poi alla programmazione della società, però quando ti arrivano i 100 milioni e passa di Pogba, uno non può non cedere un giocatore. Credo che siano tutti possibilmente cedibili. Certo. Senti, ma tu che farai? Lo so, stai benissimo, cioè, ma vuol dire un po' di voglia d'Italia, tanto ci vivi. Ogni tanto ci passo, sì, anche in Italia, sono sempre in giro, spesso e volentieri. Oggi sono a Genova, la prossima settimana sarò a Palermo, non a seguire Palermo ma a guardare un po' la logistica per la prossima partita con l'Italia e poi vediamo quello che il mondo o il destino ti pone di fronte. Senti, ci dici una cosa in dialetto trevigiano? In dialetto trevigiano? In dialetto trevigiano. Cosa voto che te dica? Ecco, allora la traduzione la facciamo fare a Raffaele. Raffaele da Treviso, benvenuto. Che cosa ha detto? Era facile. Ma guarda, era facile. Sì, pronto. Sì. Premetto che io sono napoletano di nascita, cui praticamente abito da 50 anni. Cosa voto che te dica? Praticamente è perfetto. È garito proprio una roba giusta. E vuol dire, però, scusate, che vuol dire, cosa vuoi che ti dica? Vuol dire una roba giusta, significa detto una cosa giusta. Certo, lo traduco, vabbè, chiedo scusa. Io volevo parlare sostanzialmente dei mondiali del 48 squadre, dire una cosa del, e poi dire anche un'altra cosa su Pardo, sì. Vabbè, ma la dico, faccio velocissimo. Allora, vai. La prima cosa è che quando praticamente vedevo io il calcio tantissimi anni fa, ho 53 anni, io mi ricordo che il calcio si giocava solamente la domenica. Quando ci sono stati i primi cambiamenti sembrava fosse, adesso ci siamo abituati, per cui è tutta una questione di abitudine secondo me. E si fa orecchio, come dice Pierluigi Pardo, di solito nelle telecronache. Per quello che riguarda Pardo, volevo dirle questo. Io ho visto una partita Udinese-Napoli, sì, dove lei faceva la telecronaca. Sì. Devo dire che durante la partita c'è stato, non ricordo il calciatore, credo che fosse un giocatore udinese, credo che fosse Fofanà, che ad un certo punto ha corso troppo velocemente e ha perso il pallone, cioè praticamente si è dimenticato del pallone. Lei ha detto una frase, c'erano due tifosi udinesi a casa mia e c'ero io che sono tifoso del Napoli, e dico siamo stati a ridere per mezz'ora. Lei ha detto, con fare da maestrino, con comicità, classica comicità napoletana, ha detto in questo gioco è un elemento, la palla è un elemento fondamentale che non va dimenticato. Ma l'ho detto con una comicità tale che creda, ogni volta che ci penso mi viene a ridere. E io sono contento, io l'ho detto apposta perché volevo che lei continuasse a riderci a distanza di me. Sì, è fondamentale il pallone, grande. Però è fondamentale, Gianni, anche correre senza palla, no? Nel calcio moderno. Sì, fondamentalissimo da questo punto di vista qui. Credo che l'apertura degli spazi, di cercare di correre in modo coordinato insieme ad altri compagni di squadra sia presupposto per creare situazioni di difficoltà e creare situazioni di vantaggio per il portatore di palla. Se tu non hai i movimenti senza palla, il giocatore che la conduce non sa cosa fare e spesso e volentieri si ritrova qualche difensore in più rappresentato dai propri compagni che non si muovono e quindi gli sbarrano la strada. Sì, quindi si può anche correre veloci senza palla. Abbiamo la borsa, dobbiamo fermarci. Sì, il pallone sta al calcio come la borsa sta all'economia. Cioè è importante ma non decisiva. Grazie a Gianni De Biasi e fra poco torniamo con la risoluzione del caso di Genoa-Roma. Ah sì, oh, attenzione. Tutti convocati. Il 25 gennaio un gruppo scelto di ascoltatori di Melog avrà l'opportunità di visitare la mostra Homo Sapiens al MUDEC di Milano assieme a me. Per essere selezionati e far parte del gruppo degli eletti sarà necessario inviare due foto di se stessi alla mailbox melog@radio24.it. La prima foto dovrà essere del proprio passato e l'altra del presente. Gli ascoltatori dovranno indicare qual è stata la loro evoluzione o involuzione nel periodo che passa tra le due foto. Darwin ci ha insegnato che non sopravvive il più forte, ma il più capace ad adattarsi al suo ambiente. Ma noi quanto e come ci siamo adattati? 25 gennaio, ore 20:30 al MUDEC, via Tortona 56 Milano. Tutte le info su radio24.it. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers. Tutti convocati. L'abbiamo promesso ieri, che oggi con la collaborazione del nostro Pierluigi Pardo le grandi inchieste di tutti i convocati. È arrivato anche Belinazzo, che salutiamo. Interessatissimo. La precedenza va al caso della settimana. Sentiamo. Possiamo riepilogarlo, sì. Madonna mia, Dani. Mamma mia, scatenato ragazzi, gli ho scatenato la incurata, abbiamo sentito. Allora aspetta, possiamo dire una cosa? Madonna mia, Daniè, ieri abbiamo escluso Dani, quella Dani. Era una incurata, non abbiamo escluso niente, abbiamo in collegamento Nicola Rizzoli, ricordiamo, insomma, Genoa-Roma, inizio secondo tempo, se non sbaglio c'è stato una, diciamo, un umore, un odore, una puzza tremenda. Che è successo nel tunnel? Un saluto a Nicola Rizzoli, buon anno. Oculare. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Non lo so cosa è successo, credo che la tensione abbia diritto una persona di esprimerla in tanti modi, e questo evidentemente è uno di quelli. Capita a tutti. Immagino, devo dire che l'episodio è stato divertente, curioso, ovviamente non ci interessa sapere. A proposito, ma un'idea te la sei fatta? Anche perché non lo so, assolutamente non lo so. Perché lì eravate... Credo di escludere Dani, credo che Dani fosse semplicemente davanti a Nainggolan e... che chiedeva di uscire il prima possibile, basta. Quindi su De Rossi, diciamo, c'è una testimonianza, sì. Un'escusa. Nainggolan è la vittima a questo punto. No, c'era anche chi diceva ieri che potrebbe essere stato Nainggolan, perché quello che parla, non mi ricordo chi diceva questa teoria, ma al di là dell'episodio, è stato divertente, no? Le telecamere, i microfoni nel tunnel, una volta tanto non sono andati a caccia di una polemica, ma di una roba invece alla fine assolutamente tranquilla, che ci racconta anche il clima che c'è in quei momenti lì, no? Cioè c'è anche un'umanità, una conoscenza fra di voi molto tranquilla, molto serena. Poi magari se non si fanno le puzzette è meglio, però voglio dire, è così, no? Credo di sì, è assolutamente una cosa umana e siamo tutti degli uomini. È chiaro che c'è, non dico confidenza perché ci sono il giusto distacco e i giusti ruoli, però quando la tensione si manifesta in questa maniera è normale essere uomini e vivere da uomini, come abbiamo fatto, credo, nella maniera più naturale e istintiva possibile. Poi tu fra gli arbitri sei anche uno che ha la fama di essere uno che dialoga molto, no? Che sì, ama, ecco, avere questo non è un gran dialogo, direi. No, certo. Si può fare di meglio. Immagino che tu non abbia risposto con la stessa moneta. Va bene, era anche un'occasione ovviamente per fare un in bocca al lupo a te e a tutti gli arbitri, perché il 2017 insomma sarà un anno ovviamente intenso. Grazie. Tu hai un auspicio da fare? Noi continueremo a fare le moviole, ovviamente le polemiche ci saranno, ci mancherebbe altro. È importante, e di tanto in tanto lo facciamo, va ricordato, sottolineare la difficoltà, perché poi insomma spesso c'è benevolenza quando sbaglia il tuo attaccante, il tuo difensore, il tuo portiere, all'arbitro invece non si rimprovera nulla, ma l'errore fa parte del gioco, no? Sì, no, all'arbitro si rimprovera molto più che nulla, comunque non si perdona nulla. Il clima spero proprio sia questo, cioè, nel senso, è chiaro che noi degli errori li faremo, per quanto cerchiamo di farne il meno possibile. E il più è non strumentalizzarli, cioè se è un errore va visto come tale, va criticato come tale, ma non va poi dopo fatto dietro una dietrologia che magari va al di fuori dei contesti del semplice errore. Ecco, l'auspicio è quello che noi cercheremo di sbagliare il meno possibile e magari voi cercherete di capirci il più possibile. Sì, e cercare anche di spiegare poi dal punto di vista tecnico dell'arbitro, no, l'errore, perché poi anche quello è un aspetto importante, senza dimenticare i tanti arbitri che arbitrano nelle serie minori senza i cordoni di polizia. Bravissimo. Perché poi sono sempre quelli. Il problema grosso è quello, esatto. Certo. Il problema grosso è che poi la tensione che si è manifestata così magari a Genova in altri campi possono diventare delle piccole violenze o anche delle violenze più serie, che a dei giovani arbitri potete immaginare che un ragazzo di 18, 20 anni, 22 se gli viene fatta della violenza dopo è certo. Complicato poi riuscire ad andare oltre, andare avanti, quindi per noi è un problema serio e cerchiamo di combatterla tutti assieme. Senti, ultima cosa, so che sei al Pitti, ma a te piacevano più gli arbitri vestiti come 20 anni fa in nero, oppure ti piace questa roba un po' più psichedelica? Allora, io amo l'arbitro in nero, però devo ammettere che la Diadora ha fatto un lavoro molto buono sulle divise, ha dei colori interessanti. Adesso quest'altr'anno ce ne sarà uno nuovo che non posso ancora svelare, però il giallo psicadelico è un colore che è molto utilizzabile, facilmente utilizzabile, e che vedo che molti portieri stanno copiando, quindi riusciamo a utilizzarlo poco anche per quello delle volte. Ma poi così non date nell'occhio, cioè non è che siete identificabili campo. Però insomma l'arbitro, poi il nero sfina, va bene. Dicono che l'arbitro buono è quello che si vede il meno possibile, meglio usare il nero. Esatto. Senti, il derby di Bologna, bello, tu sei sempre bolognese. Bello, sì, bello, perché indipendentemente da chi ha vinto, è bello averlo rigiocato, è bello... averlo giocato in quella maniera, perché punto a punto così è stata veramente una partita molto entusiasmante, e credo che abbiano dimostrato che non è assolutamente un derby di A2, ma entrambe le squadre hanno palcoscenici pubblici che sono meravigliosi, sia quelli della Virtus che della Fortitudo, sono due tifoserie stupende. Va bene, quel commento mi veniva in bolognese, ma poi non si può dire, è un po' come fare le puzzette. No. Volevo fare una cosa così finale per continuare nel clima da puzzette. Non è elegantissimo, però insomma. Grazie a Nicola Rizzoli, in bocca al lupo a lui e a tutti gli arbitri di tutte le categorie per la stagione, che è complicata, Sempre complicata. Tanto poi arrivavamo Viola in campo, il 2017 è un anno pazzesco per gli arbitri. Ah sì, no, assolutamente. Va bene, lo ringraziamo, noi restiamo ancora col dubbio. Però non è stato De Rossi. Rizzoli, due punti, virgolettato, non è stato De Rossi. Non è stato De Rossi, possiamo dare l'agenzia, sì. Giorgio De Luca, diamo l'agenzia, non è stato De Rossi. Oh, intanto saluto Marco Belinazzo, perché lo dicevamo oggi, giornata di mercato, e poi dopo ci dici cosa pensi del Mondiale a 48, ci fai i conti, eccetera. In tanti ci scrivono, ci avevano già scritto anche venerdì, quando ci siamo visti l'ultima volta, per chiederci come fa l'Inter a prendere Gagliardini, che tra pochi minuti, poche ore sarà annunciato ufficialmente. Le cifre sono complessivamente intorno ai 28 milioni di euro. Sì, l'Inter non farà la formula dell'obbligo di riscatto, del prestito più obbligo di riscatto, perché la UEFA l'ha vietata, si farà con un prestito oneroso più diritto di riscatto. Evidentemente l'Atalanta ha avuto tutta una serie di rassicurazioni, bisognerà capire in che modo saranno state poi articolate nel contratto queste rassicurazioni, e quindi cede un giocatore che ha fatto chiaramente un exploit in questa prima parte di stagione, e sarà un exploit anche finanziario per i conti della squadra bergamasca. Abbiamo il traffico, poi ripartiamo da qui e magari proviamo anche a capire, visto che i giornali sono pieni delle trattative di giugno e sembra che tutti comprino tutti, io vorrei sapere chi si può davvero permettere alcuni dei nomi che ci sono sui giornali. Traffico, torniamo. Tutti convocati. Tutti convocati. Cercheremo di lavorare come abbiamo fatto dall'inizio con tutti quei giocatori che abbiamo a nostra disposizione, cercando di migliorarli, migliorare la squadra per vincere le partite. Io credo che ho già parlato a lungo su questo, cioè sempre che sono sollecitato dal direttore per analizzare dei giocatori come abbiamo fatto nel mercato anteriore, cioè do il mio analisi, dopo tocca alla società prendere le decisioni. Tanto Pier, ti sgridano per aver salutato con un Sochmel. Non si può dire? Non so, evidentemente non si può dire. Oddio, ho fatto una... Vabbè, ma si dice, è un intercalare, no? Sì. Cioè, è chiaro che la cosa letterale non è... Ma no. Però, mamma mia. Giro un messaggio invece che è arrivato per Marco Bellinazzo: che senso ha fare le regole se poi non vengono rispettate? Questo è il caso dell'Inter. Beh, non vengono rispettate, sono state fatte rispettare, nel senso che non si farà l'operazione Gagliardini con la formula di cui si era parlato inizialmente, che è il prestito più obbligo, perché la UEFA lo considera come un acquisto immediato e quindi avrebbe avuto un carico sul bilancio 2017 che è ancora sotto monitoraggio. Viceversa, si farà con un'operazione, con una formula che prevede il prestito più il diritto di riscatto. Peraltro agevolato anche dalla contestuale uscita di Jovetic, che va a Siviglia con una formula analoga, per cui qualora facesse bene il giocatore montenegrino in Spagna sarebbe poi riscattato per una cifra intorno ai 14 milioni, e questo abbasserebbe poi di molto il peso economico dell'operazione Gagliardini. Allora, i tanti nomi che si leggono, cioè, chi è che può permettersi Verratti in Italia? Beh, sostanzialmente due squadre, la Juventus per quello che ha in questo momento, l'Inter per quello che potrà avere, che può dare Suning, soprattutto a partire dalla prossima stagione, cioè da quando raggiunto il pareggio di bilancio a fine anno i vincoli saranno un po' meno stretti, e dopodiché non vedo grossi, diciamo, tanti club che possono fare questa operazione. Magari lo potrà fare il Milan quando ci sarà più chiarezza sul fronte societario e della proprietà, anche però consideriamo che il Milan poi dovrà fare un po' di conti con la UEFA, perché non è messo benissimo, e lo stesso per quanto riguarda la Roma. Quindi io vedo la possibilità per queste altre squadre di fare operazioni con somma zero, insomma, con entrate che possano coprire le uscite. Prima abbiamo sentito De Biasi dire che se davvero arrivano 65 milioni al Toro per Belotti conviene incartarlo qualcosa e portarlo qualcosa di via. Più dice, qualcosa, poi... 65 e mezzo insomma qualcosa più di 65. Io credo che si debba dire la stessa cosa per Kalinic, cioè, so che a Firenze il tema è dibattuto in queste ore. Capisco anche che vendere un giocatore a gennaio significa poi non avere modo di prenderne uno e fare un progetto tecnico, però a quelle cifre lì e con i cinesi che spendono io penso sia una follia mettersi a discutere. Tra l'altro la situazione di Kalinic è molto particolare perché l'offerta sarebbe al momento ferma a 45 milioni in presenza di una clausola rescissoria di 50. Quindi è evidente che nel momento in cui il giocatore ha deciso se arriverà a pagare quella clausola, il giocatore andrà via garantendo sostanzialmente una plusvalenza di 47-48 milioni che insomma è tutto grasso che cola. Poi sì, c'è un progetto tecnico, però c'è anche una situazione in cui oggettivamente le griglie del campionato per le varie posizioni mi sembrano già abbastanza definite, e aggiungo purtroppo perché insomma siamo in una fase della stagione piuttosto prematura per fare certi discorsi, però se guardiamo la classifica, no, insomma più o meno i conti per tanti traguardi mi sembrano già delineati. Sì, non è semplice, Pier, no, chiedere a un presidente di rinunciare a 50 milioni per arrivare sesto invece che ottavo. No, ma assolutamente, ma infatti, ma anche perché poi se c'è la famosa buona fede, ieri ne parlavamo con Sabatini a proposito della Fiorentina per esempio, se c'è, ma lo stesso discorso può riguardare per il Torino, se c'è comunque la volontà di investire, oggi ci sono dei giocatori che esplodono in squadre di medio-alto livello che chiaramente poi diventano i top player, questi top player ti danno la possibilità di monetizzare in maniera importante, a patto che poi tu con quei soldi non te li mette in saccoccia, come si dice a Roma, almeno non tutti, ma possa continuare a costruire una squadra competitiva. Io credo che oggi, nel mercato di oggi, non ci sia club che può prescindere dalle cessioni, e le magie di mercato si fanno sia in acquisto ma forse soprattutto in vendita, ma, cioè chi riesce a vendere in maniera particolarmente efficace i propri giocatori fa un affare esattamente come chi riesce a comprare a un buon prezzo dei giocatori forti. E io faccio il caso dell'Atalanta, nel senso che sappiamo quello che sta facendo l'Atalanta di buono, quello che farà sul mercato, però c'è anche una scelta intelligente che sta facendo la proprietà, perché quasi 50 milioni incassati per Gagliardini e Caldara saranno investiti per esempio nell'acquisto dello stadio. La città di Bergamo sta mettendo all'asta lo stadio e questi soldi serviranno per rilevare lo stadio e per avviare tutta una serie di lavori che garantiranno insieme al centro di Zingonia un futuro radioso, ovviamente per quello che è il panorama, per quello che è l'orizzonte, per quelli che sono gli obiettivi del club della famiglia Percassi, però mi sembrano insomma delle scelte assolutamente fondate, strategiche e fatte con estrema lungimiranza, a differenza di tanti altri club. A differenza forse anche del Napoli, diciamo, oggi è anche il giorno in cui Gabbiadini si sta avvicinando alla Premier League. Alla fine io credo che l'investimento non sia valso la pena, cioè tenerselo per sei mesi dovrebbe andare via 20 milioni. Ecco, a proposito di cattive scelte, quella di quest'estate di non farlo partire quando valeva molto di più è stata, credo, certamente una cattiva scelta. Sì, è stata, sai, una cattiva scelta anche condizionata dalle tempistiche dell'affare Higuain, che oggettivamente non ha lasciato tanto spazio per poter prendere un sostituto adeguato. Alla fine si è scelto di tenere Gabbiadini, il quale ha avuto un rendimento molto molto al di sotto delle sue possibilità fin qui, e paradossalmente insomma ha iniziato a non solo a fare gol, ne ha fatti tre consecutivi, ma anche a muoversi molto meglio in campo da centravanti, insomma magari se Napoli lo tiene ancora per un paio di settimane e lo vende alla fine del mercato, qualche altro gol lo fa, qualche altro milioncino della Laurentiis. Com'è che insomma, si dice, ha già fatto segno della croce con la mano a Schmerz? Sì, so che tu stai facendo questo corso di Napoletano con De Luca, accelerato, sì. Di Napoletano ha già fatto segno della croce con la mano Schmerz. Con la mano Schmerz, che sì. Con la mano Schmerz vuol dire ho fatto il segno della croce con la mano, però mano è una metafora, è come dire, ma che stiamo facendo, una, no? Sì, insomma, che ma oggi dicevo che ci sono tanti tifosi di Napoli che vorrebbero tenerselo. Cosa che credo oggi sia una follia. Sì, è una follia, però tre gol nelle ultime tre partite. Il calcio è liquido adesso, senza ritornare a Baumann. Ma gli stessi che fino a ieri chiedevano di mandarlo via. Sì, però il calcio è liquido, appunto, e le cose cambiano anche abbastanza rapidamente. Quindi io credo che la scelta sia stata fatta e sia la scelta più logica e più razionale. Però sicuramente poi c'è anche, se vuoi, una variabile di carattere psicologico. Cioè Gabbiadini, da quando è stato a un centimetro anche dal punto di vista temporale dalla partenza, è cresciuto, ha trovato forse anche un pochino più di spazio. Però insomma, sta di fatto che a Firenze ha avuto la freddezza sul calcio di rigore, con la Samp ha fatto un gol pesantissimo e ieri comunque si è confermato. Quindi sì, e nella stessa posizione o quasi Pavoletti ha mandato il pallone sopra la traversa. Esatto. Ora, se uno dovesse valutare da quello che ha visto, poi partire Pavoletti. Però vabbè, è chiaro che insomma, bisogna avere un orizzonte un po' più lungo per valutare, certo, le cose. La scelta, secondo me, è la scelta opportuna, perché Gabbiadini non è che è rimasto un giorno a Napoli, cioè è rimasto a lungo, ha avuto secondo me pochi spazi, ha avuto anche poco feeling con Sarri, questo rimane un elemento dirimente, e adesso secondo me è giusto che vada via, ma anche per il suo interesse, insomma, per andare a giocare con continuità. Fra un po' arriva anche De Giovanni, ne parliamo con lui. Ne parliamo con lui, cerchiamo anche di capire cosa ha fatto ieri sera. Ci colleghiamo con Pizzo Falcone. Ieri sera tanti napoletani avevano il cuore diviso, a partire da Giorgio De Luca, avevano il cuore diviso in due. Sì, che quando attaccava il Napoli guardava la partita, quando attaccava lo Spezia metteva su Rai 1, faceva questa cosa qua. Hai capito. Abbiamo finito, c'è il GR 800 24 00 24. Io saluto Marco Bellinazzo. Sai che dopo discutiamo anche dell'11 italiano all time, quello di Ventura. Ha scritto un amico: stamane sono svenuto leggendo che Ventura ha lasciato fuori Paolo Maldini dalla nazionale all time. Dai, diteci che cosa ne pensate. 800 24 00 24. GR, torniamo subito. Tutti convocati. Ti piacerebbe entrare davvero nella caverna di Platone? Radio 24 con Alessandro Milan, Leonardo Manera e altri ospiti vi aspetta domenica 15 gennaio al Teatro Manzoni di Milano per ridere e divertirsi con l'attualità. Tutte le info su radio24.it e teatromanzoni.it. Platone, la caverna dell'informazione, il lato comico dell'attualità. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. State ascoltando un programma offerto da... Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers. Tutti convocati. Io credo che il calcio non finisca mai, proprio perché al di là dei media, no, dei giornalisti che sono tutti allenatori, ma anche per strada sono tutti allenatori, anche come mi è capitato ieri al supermercato sono tutti allenatori, devo dire anche a Milano, io pensavo che fosse solo a Roma, e quindi in questo pensavo che le cose fossero un po' diverse, quindi ci convivo e sono in grado di conviverci. Hai capito, no? Sono tutti allenatori, anche al supermercato, danno consigli a Montella questa sera, oggi c'è Fiorentina-Chievo, e domani c'è Milan-Toro, stasera c'è anche Juve-Atalanta per la Coppa Italia, ieri abbiamo visto il Napoli, poi ne parliamo con un tifoso speciale. Adesso invece parliamo di una cosa un po' particolare che è uscita sui giornali in questi giorni. Io saluto Federico Quarato, che è fondatore di Dynamitic, società che curerà per Lentella in Buongiorno. Serie B. Buongiorno. la vendita dei biglietti, un po' come si fa quando si prenotano gli hotel o i voli aerei. Esatto. Cioè, a seconda di quando vuoi comprare il biglietto, a seconda di che tratta è, l'offerta, a seconda di mille diverse cose, può costare più o meno, no? Giusto? Esatto, sì, si tratta di importare nel mondo dello sport, in generale per quanto ci riguarda nel mondo dell'intrattenimento e finalmente nel calcio, questa metodologia di vendita dei biglietti, che è una di quelle più all'avanguardia, che sta avendo un grande successo da diversi anni negli Stati Uniti e per il quale crediamo che fosse il momento giusto per arrivare in Italia. Ma come lo fate il prezzo delle partite? Cioè, questo algoritmo, no, visto che vanno di moda gli algoritmi, cosa c'è dentro come variabili? Sì, esatto, noi produciamo algoritmi per la discriminazione del prezzo che sono regolati dall'intelligenza artificiale, quindi da metodi matematico-statistici abbastanza fini e innovativi, che permettono appunto alle società di calcio, così come multisala cinematografici piuttosto che a teatri o chi organizza eventi, di discriminare il prezzo dei propri biglietti a seconda di un numero definito di variabili. Il nostro lavoro è appunto identificare quelle che sono le variabili che impattano sulla domanda di un biglietto, in questo caso dello stadio. Quindi per una partita di calcio quali sono queste variabili? Conviene comprare prima o comprare dopo? Conviene sempre comprare prima, o perlomeno nella maggior parte dei casi. Quindi solitamente il prezzo tende a crescere avvicinandosi all'evento. Quando è che cala? Per capire come funziona il meccanismo. Non è così banale, per questo si tratta di una correlazione. No, perché sennò il meccanismo è lo stesso per cui tu ti abboni a tutta la stagione, paghi meno in percentuale le tue partite, poi prendi il biglietto per la singola partita e paghi di più. Invece io leggevo c'è anche la previsione del meteo, ci sono tante cose insomma che intervengono, sì. E possono anche abbassarlo il prezzo. Certo, cioè tutto quello che impatta, come dicevo, sulla domanda, quindi il calciomercato, la felicità dei tifosi, chi è in campo, la possibilità di vedere più o meno gol in una partita, quindi tutto quello che rende appetibile uno spettacolo o meno. Intercettiamo il sentiment dei tifosi sui social network, quindi facendo un'analisi semantica di tutti i tweet e i post che rileviamo sui social. C'è un'analisi scientifica per capire qual è la domanda. Qual è adesso? Al finale consigliamo di abbonarsi, perché i ratio abbonamenti sarà più sicuramente basso, certo. Il prezzo minimo e in generale di programmare con anticipo l'acquisto dei propri biglietti, perché questo solitamente premia, non è sempre così, perché evidentemente, così come accade per un volo aereo, sarà possibile che in alcuni determinati casi trovare allo stadio un prezzo leggermente più basso. Ecco. Questo però non è semplificabile. No, certo, non è semplificabile. No, volevo fare però due esempi. Uno sulla prima partita. Quale sarà la prima partita? Col Frosinone, credo, no? Entella Frosinone, sì. Ok, e i prezzi già stanno fluttuando o adesso c'è un prezzo fisso? No, la prevendita apre il 16. Sì. Quindi dal 16, ovviamente essendo una fase di test, una fase sperimentale, il prezzo cambierà una volta al giorno, quindi proprio per approcciare in maniera soft questo pricing dinamico. E chiaramente al 16 mattina il nostro algoritmo dirà qual è il prezzo corretto, noi lo chiamiamo fair value, di ogni singolo settore. Il giorno successivo, in questo caso, il prezzo potrà cambiare se saranno cambiate determinate variabili. Diventa un lavoro. La cosa che vorrei capire, questo approccio potrebbe essere utile. Vediamo spesso delle grandi squadre, la Juve non ha questo problema perché ha uno stadio non eccessivamente grande, molto comodo e quindi quasi sempre pieno. Ma vediamo per esempio San Siro, l'Olimpico, dove poi ci sono anche altre dinamiche di contestazione, sappiamo bene, rispettabili da parte dei tifosi, ma che insomma finiscono per svuotare lo stadio. Anche Napoli non è che, insomma, gli stadi italiani non è che siano pienissimi. Lei ha qualche idea? Cioè, assolutamente sì. L'idea che, allora, premetto che non ci professiamo come gli unici a poter cambiare una situazione che chiaramente ha un problema che è strutturale, che è ben radicato nel sistema. Ci sono diverse cose che aiutano, si parla tanto degli stadi di proprietà, si parla di portare innovazione, di adattare gli impianti, ma c'è sicuramente un metodo che è quello di utilizzare un sistema di prezzi diverso per avvicinare il tifoso e cominciare a trattare trattarlo come un cliente. Ma lei farebbe la second? Lei farebbe un la second? Beh, in alcuni casi può essere, potrebbe essere interessante. Il pricing dinamico è una cosa un pochino più complessa e più strutturale, e quindi non prevede offerte dell'ultimo minuto, ma ci sono degli esempi già di successo negli Stati Uniti. I San Francisco Giants, e quindi da Chiavari a San Francisco c'è molta differenza. Tra San Francisco e Milano molta meno. I Giants, da quando hanno implementato il dynamic pricing, hanno fatto più di 460 sold out consecutivi e prima non lo facevano. Quindi certo, evidentemente noi riteniamo che il prezzo dinamico possa avvicinare. Possa aiutare. Si può fare. Grazie, grazie Federico Quarato. Grazie a voi. Grazie, la focaccia è meglio Chiavari. Sì, rispetto a San Francisco. San Francisco io però devo dire la verità, lunedì vado sul sito e... No, vuoi vedere come funziona? No, perché per esempio, sai perché gli chiedevo una cosa alla fine? Tante volte io penso che un last minute a dei prezzi particolarmente competitivi il giorno della partita porterebbe delle persone allo stadio. Ieri c'erano 20.000 persone per Napoli. È pure vero, esatto, è pure vero che però poi se tu fai last minute poi la partita dopo si sparge la voce e quindi magari nessuno compra più il biglietto in anticipo. Di fondo poi conta sempre ovviamente molto il prodotto che hai, la comodità, l'accessibilità, il discorso che faceva Quarato mi sembra stracondivisibile. Benedetto da Mantova, Benedetto. Buongiorno a tutti. Eccoti. Il motivo saluto tutti ovviamente, ma il motivo della chiamata è più che altro con il mio, non posso dire amico, ma conoscente, simpaticissimo Pier, che ogni tanto fa le sue puntate a Mantova in ambito di certe manifestazioni. Puoi anche dire amico. Beh, insomma, ringrazio del credito, però ancora non volevo allargarmi potenzialmente, quasi amici, come un film francese. Ci siamo abbracciati, fotografati, fate di tutto. Detto questo, abbracciati anche a tutti, per carità. Detto questo, ecco, io sono nel mondo sportivo, insomma anche come arbitro del CSI, che ho arbitrato 1300 partite, ho qualche esperienza del trattare con i cervelli dei calciatori, mi è sempre stato molto, e questo lo voglio attenzione dire, perché proprio oggi abbiamo parlato di altre parti anatomiche dei calciatori. Sì, capito. Però sa, dopo più che altro sono le teste che li fa un pochettino, cioè che sono un po' alterati da un punto di vista fisico, visto praticamente lo sforzo eccessivo che possono avere, e quindi reagiscono in un modo non uguale alle persone che non hanno questo tipo di sforzo. Detto questo, volevo solamente esporre un mio semplicissimo e umilissimo parere su Rizzoli, il quale insomma è da quando arbitra e che è osannato, e devo dire che si è fatta una statistica, perché io lo seguo in particolar modo, al di là di alcune partite che è stato particolarmente fortunato, perché che fa la partita e che rende un arbitro buono anche il comportamento degli atleti in campo, al di là di cose importantissime che lui ha fatto bella figura in virtù anche di quelli di sud degli episodi, si è poi fatto una statistica, il più delle volte non arriva alla sufficienza. Non voglio riesumare episodi Totti Perugia da lì in poi. Però Benedetto, stare a dire che un arbitro fa la finale mondiale, la finale Champions League e mille altre cose, perché Rizzoli ne ha fatte mille altre, per fortuna. Ma è assurdo. Onestamente lo trovo un po' tirato per i capelli. Guarda, io... Anche se è vero che esiste una scuola che dice che il miglior arbitro italiano non sia Rizzoli, ma Orsato. Questo ci sta. Però... Ci sono anche poi le stagioni, ci sono anche i momenti di forma, ci sono anche le interpretazioni. Io ho visto delle partite dove non mi è piaciuto Rizzoli, lo dico pubblicamente, il derby di Torino dell'anno scorso, una partita con tanti errori da una parte e dall'altra, Atletico Madrid-Barcellona, però poi ci sono state anche grandissime partite che ha fatto, la finale del mondiale credo sia stato un capolavoro, insomma è un arbitro che non si diventa l'arbitro della finale mondiali senza talento o per culo o per raccomandazione. Questo ragazzi è francamente assurdo. Poi noi, io penso, siamo vittime in Italia della cultura del sospetto, sempre e comunque un po' a prescindere. In Inghilterra vanno allo stadio e non sanno neanche il nome dell'arbitro, poi se c'è da polemizzare si polemizza, ma non c'è tutta la casistica, il ricordo di quell'episodio, la ricusazione dell'arbitro che non ti piace. Gli unici, perché no, anche non siamo gli unici, insomma, però questo è il paese di Machiavelli, ragazzi, è il paese di Machiavelli, il paese nel quale la cultura del sospetto da sempre, da Machiavelli a Andreotti, voglio dire, fa parte della... Io comunque ricordo che anche Collina e Rosetti, diciamo, i due grandi prima di Rizzoli. Ma Rizzoli sarà ricordato come un grande. Sono stati criticati più in Italia e messi in dubbio più in Italia che fuori. E gli stessi arbitri, magari non te lo diranno pubblicamente, ma secondo me ti diranno che in certi momenti sicuramente è stato più facile per loro allenare all'estero, perché chiaramente non c'è quel substrato di pressioni che rompono le scatole. Non c'è molto da fare, però ripeto, siamo noi che dobbiamo capire che prima di tutto abbiamo la cultura del sospetto. Poi conduco un programma che si chiama Tiki Taka, dove l'altro giorno abbiamo parlato di Reina, della simulazione del secondo cartellino, perché è normale che se ne parli, è giusto possibilmente con un atteggiamento costruttivo, cercando di capire se c'è stato un errore, perché c'è stato quell'errore. Allora, facciamo una pausa dal calcio e parliamo di pallacanestro. Saluto Max Menetti, coach di Reggio Emilia. Salve, buongiorno a tutti. Grande tifoso della Juve, Pierro, sai? Sì. Il Benettone, come va? Rivelazione che ha fatto proprio qui a Radio 24, insomma, la sua fede bianconera. Sì, è proprio vero quello. Poi stavamo parlando di Ristori, se non sbaglio c'è stato anche lì un episodio. Sì. Hai capito? Vengono anche dal basket, no? La Maviola, facciamo lista al replay. Come va in casa Arzan? Come stanno questi Arzan? Questi reggiani? Insomma, in casa reggiana siamo in un brutto momento, nonostante una bellissima classifica. Però, insomma, se va male che vada così, diciamo così. Ma che sta succedendo? Ma no, abbiamo un po' di infortuni, un paio di tre giocatori fuori, un bellissimo inizio di campionato e dopo una fase. Al di là di un bellissimo exploit con Milano in una situazione di vera emergenza, adesso una fase un po' più, diciamo, di calante, ma insomma abbiamo una bella pausa di 15 giorni per voltare pagina e ricominciare il girone di ritorno, al di là di un bel girone d'andata. Ma tanto si gioca per il secondo posto, no? Abbiamo visto anche ieri sera Milano che ha chiuso ufficialmente il girone d'andata, ha vinto senza nemmeno soffrire troppo il derby a Cantù. Sì, quello più che altro nel basket è questo: ci ammazziamo durante l'anno per poi dopo ricominciare da capo con i playoff, questa è la grande verità. È ovvio che bisogna esserci, e questo è il grande obiettivo di tutti, ma è evidente che poi conta, sì, è vero, si gioca per il secondo posto, questa è l'idea generale, ma soprattutto si gioca per il secondo posto dai playoff, questo è il bello e il brutto del basket, si riazzera un po' tutto. Ma esiste lo spazio per qualcosa, per un miracolo, per un anti-Milano? Abbiamo parlato anche l'altro giorno con Meo Sacchetti, che insomma è stato protagonista 2 anni fa di qualcosa di incredibile, però sì, mi pareva sì. Scettico, sì, purtroppo evidentemente per Reggio Emilia non è un meraviglioso ricordo, immagino, però diceva, no, insomma... No, è il più bello della nostra storia, ci mancherebbe. Anche se avete perso. Certo, beh sì, perché se uno fa una finale e poi pensa che è un brutto ricordo, deve ammazzarsi, ecco, non può più giocare. Però è evidente, insomma, a me, io credo che l'abbia detto, che dipende molto anche da loro. La scorsa stagione sono stati molto bravi a ritrovare grande unità proprio durante i playoff. Non ce l'hanno fatta l'anno prima, e l'anno prima ancora invece l'hanno vinto facendo fatica. Il nostro campionato è molto difficile, ma in generale tutti gli sport, credo, ne parlate di tutti gli sport, anche proprio nella vostra trasmissione, è difficile vincere a tutti i livelli e in tutte le categorie. Immaginiamoci a questo livello. È evidente che la questione dell'Eurolega adesso ha scavato un po' un fosso che è un po' più grande di quello di prima, ecco. Ma è un po' frustrante, e credo valga anche per il calcio, per quelli che stanno con la Juve nello stesso campionato. Cioè è un po' frustrante partecipare a un campionato in cui c'è qualcuno che è così nettamente superiore in partenza, ha dei mezzi, per mille motivi, ha dei mezzi superiori. Sì, diciamo che per quello che vedo io nel calcio, diciamo che ci sarebbero realtà che potrebbero avere la possibilità economica di stare alla Juve. È chiaro che la Juve ha creato un solco tecnico più che altro in questo momento qua, creando una squadra di altissimo livello. Qui invece con Milano, naturalmente, per questo parlavo prima dell'Eurolega, la sua partecipazione, la sua così licenza decennale all'Eurolega la posiziona anche economicamente in una posizione completamente diversa. Ma è chiaro che è una bellissima sfida, ecco. Tra l'altro è una posizione anche quella scomoda, anche quella di Milano, perché insomma se vinci hai fatto il minimissimo, certo. Non hai neanche fatto niente di particolare. Quindi sei solidale con Allegri, che si arrabbia quando gli dicono se vinci lo scudetto e non vinci la Champions. O non glielo dicono, dire, però insomma glielo fanno posso capire. Posso dire da profano che questo meccanismo qui a me non piace, nel senso che è il fatto che ci sia appunto una licenza attribuita quasi per diritto divino. Ovviamente i risultati ci sono stati, altrimenti questa licenza non sarebbe stata data a livello europeo, e la possibilità di confrontarsi con le migliori realtà d'Europa porta ovviamente soldi, porta ovviamente esperienza, porta ovviamente anche un po' di stress, insomma basti pensare a quello che è successo l'altro giorno a Istanbul, poveri che non riuscivano a ripartire. Però è un vantaggio competitivo nei confronti delle altre che francamente non c'è. Allora, nel calcio esiste già il meccanismo della nostra Eurolega, che si chiama Champions League, dove chiaramente se tu entri a quel punto hai un vantaggio enorme, però almeno è basato sul merito. Quindi io sono abbastanza d'accordo. Non su questo, sul sistema insomma. Dei centri. Sì, tra l'altro, purtroppo l'avrete anche seguita. Noi, tra l'altro, abbiamo avuto la cosa assurda che dopo due finali scudetti consecutive noi siamo fuori dalle coppe a tutti gli effetti. Per noi questo è stato un grande danno tecnico, perché le coppe fanno crescere le squadre. Certo. Gli allenatori che dicono che ma la coppa non ci siamo allenati, secondo me sono ed è conto delle grandi balle. Ecco, la verità è che tutti quelli che partecipano alle competizioni europee aumentano il livello tecnico dei propri giocatori, e questo per esempio per noi è stato un gravissimo danno, oltre al fatto che non partecipare alla Champions, naturalmente alla Champions tu accedi a un livello di giocatori completamente diverso col mercato, al di là dei soldi. Vedo le difficoltà che hanno avuto anche il milanese ad accedere a determinati tipi di giocatori nonostante gli investimenti. Quindi insomma, quindi il solco, è sempre meglio esserci che stare assolutamente fuori. Sì. Assolutamente. Io ringrazio Max Menetti, lo salutiamo. A voi, crepi il lupo. Vi auguriamo un meraviglioso 2017. Andiamo a Napoli, dai, che abbiamo la chiusura che vi abbiamo promesso. Sì, sì, siamo contenti che abbiamo vinto questa partita. Passiamo turno, questo era il nostro obiettivo. E adesso pensiamo al Pescara, che ci aspetta un'altra partita difficile. La domanda delle domande che Giorgio De Luca fa da ieri mattina è: ma De Giovanni che vedrà in televisione? Il Napoli o i bastardi di Pizzo Falcone, che è la fiction fatta e tratta insomma dai suoi iscritti? E noi cosa facciamo? Abbiamo convocato certo. E glielo chiediamo direttamente De Giovanni. Questa vostra ferocia sì, sincero però nell'analizzare sincero, i miei dilemmi amletici. Grazie, buon pomeriggio a voi e un saluto affettuosissimo. Maurizio De Giovanni non ha visto né l'uno né l'altro, nel senso che ero a Roma all'Eliseo alla prima di Qualcuno volò sul nido del cuculo, di cui ho scritto l'adattamento per la regia di Alessandro Gasman. Ma quindi era la cosetta, Maurizio, fai un lavoro, non essere timido, perché tu sei pigro. Ma lo stereotipo del napoletano sfaticato, devo pure alimentarlo in qualche modo. Certo. E quindi ero lì in attesa. Senti, io invece ho un'altra domanda, poi mi posai. Quanti altri lunedì andare avanti? No, per sapere così, come curiosità mia, perché mi fa piacere. Dunque, sono altri 4 lunedì, un totale di 6 puntate. Mi fa piacere perché fate più di 7 milioni. No, ma a me fa piacere. È bello quando c'è un prodotto di qualità. Diciamo, se volete fare un po' di traino pure Italia 1, non lo so, ma inserire dei messaggi subliminali, che ne so, bastare Pizzo Falcone che dicono: dai, speriamo di sbrigarci che fra un po' c'è Tiki-Taka su Italia 1. Se può servire, il cuore dell'autore è contento. Non c'è alcun. Sì, ma inseriscilo nella sceneggiatura, fai una cosa tipo, capito? Una bella scena lì su una fase drammatica, metti sbrigiamo che comincia attività. Comincia attività. Sarebbe carino. Ma dall'altra parte è implicito, direi, in qualsiasi forma narrativa che comincia tiki-taka, cioè tiki-taka è un cardine assoluto anche culturale. Lo dico De Luca, questa registra la mandiamo adesso tutta, senza scherzi. Io dico che l'approccio di tiki-taka è assolutamente innovativo, una cosa straordinaria e nuova, e con delle pilotate astute cadute sulle polemiche che mettono la gente in condizioni di sperare di non essere mai nata quando si trova seduta su quel divano, però tuttavia il divano che ho frequentato con gioia. Poi vogliamo dire che eravate d'accordo, tuo, no? Sai, è tuo, Luigi non mi invita più, ma io non ti invito più. Allora lunedì, e quindi ma allora lunedì devo... se sì, no, altrimenti com'è, aspetta la cosa di prima, come ha già fatto segno della croce con mano smersa, ma che facciamo, c'entrava qualcosa, no? C'entrava niente, certo. perfetto. Quando vuoi. Luigi è napoletano, nessuno d'adozione, mai sì. Esatto, perché esatto. No, perché alla centesima pasta patata e provola si acquisisce, è come nei videogiochi, capito? È un modo di acquisire la città, esatto. Sul DNA, certo. Abbiamo un minuto, io voglio fare una domanda seria a Maurizio De Giovanni, che non riguarda il Napoli ma riguarda Napoli, che mi è stata caldeggiata dal nostro Giorgio De Luca, e cioè se Maurizio De Giovanni sta con Saviano o con De Magistris, con la possibilità o no di raccontare Napoli anche in maniera positiva e non solo raccontandone gli aspetti drammatici che ci sono e negativi. Maurizio. Ma guarda, io ho scritto sul Corriere della Sera, quindi ho le prove, di avere una posizione che non è. Io sono molto sorpreso e francamente un po' disorientato da questa polemica, perché in realtà loro dicono due cose assolutamente compatibili. Se tu sfrondi la polemica di tutti quei toni, degli stracci che volano e, dalle, e delle offese anche un po', se vogliamo, tristi, loro dicono due cose vere. Napoli è sicuramente, ci sono larghe fasce della città che sono purtroppo e drammaticamente preda della criminalità organizzata, dove ci sono dei fenomeni come quelli delle stese che sono veramente preoccupanti. Identicamente esiste una gran parte, tra l'altro questo argomento è una materia di ordine pubblico che non compete al comune, quindi va detto che l'ordine pubblico, questo tipo di ordine pubblico è una cosa che rimonta alle responsabilità del Ministero dell'Interno. Per quanto riguarda invece un'altra parte della città, onesta e capace e fortemente determinata a riscattarsi, anche questa è pure discussione ed è sotto gli occhi di tutti. Napoli ha un incremento di alcuni dati relativi all'accoglienza che ha due cifre, contrariamente al resto dell'Italia, quindi questo anche va preso in adeguata considerazione. Quindi francamente non ne capisci, cioè noi non scriviamo Napoli, noi scriviamo storie ambientate a Napoli. Questo rende legittimo ogni punto di vista, questo rende legittima ogni angolazione. Cioè se io decido di raccontare una storia di esseri umani che vivono all'interno di una città, io non è che ho la pretesa sociologica di spiegare raccontare la città, ma di raccontare la vicenda personale di quelli. Io sto semplicemente raccontando una storia di 8 persone all'interno della città. Se ne raccontano spaccato. Io vi devo fermare perché siamo ampiamente fuori dalla chiusura. No, ma chiediamo scusa a noi. Troppo breve. Ci fermiamo. Ringrazio Maurizio De Giovanni. Domani torniamo dopo le 14. Ringrazio anche Giorgio De Luca, Gianmarco Ferronato, Pierluigi Pardo. Ringrazio tutti. Il divano aspetta a te. Cioè, fa quel divano di chitarra. Aspetta a te.